L'ottavo giorno, a cura di Emiliano Enrico. In questo paese cattolico e contadino che pensa al denaro di continuo ma non smette di considerarlo lo sterco del demonio, Briatore può farsi docce di champagne su tutti gli yacht che vuole, è coerente col personaggio. Ma Santoro non deve guadagnare come Letterman né Saviano come Grisham, perché da chi sferza il malcostume gli italiani pretendono voto di povertà. A noi gli eroi piacciono scalzi e sfigati per poterli compatire e sentirci più buoni. Così dopo votiamo i miliardari con maggiore serenità. È un inizio un po' insolito per l'ottavo giorno. Ho scelto un passaggio della rubrica che scrive tutti i giorni sulla stampa Massimo Gramellini, questo era il suo buongiorno di giovedì, nel quale Gramellini dice la sua sulla polemica, che peraltro si è già smussata in alcuni angoli, tra Borriello, l'attaccante del Milan, che lo ricordo ha avuto il padre ucciso dalla camorra quando aveva 11 anni, e Roberto Saviano, che è stato accusato proprio dal giocatore del Milan di aver lucrato su Napoli scrivendo e parlando di Camorra. Io non voglio entrare nel merito della disputa su Saviano, ricordo soltanto di averlo intervistato proprio per Radio 24 ormai 4 anni fa, girava ancora senza scorta, stava sbocciando il successo di Gomorra, mi sembrò sicuramente una persona molto più matura che aveva già vissuto molte cose rispetto alla sua età, all'epoca era sotto i 30 anni. Poi bisogna dire che è avvenuta una trasfigurazione non solo per colpa sua naturalmente, è stato trasformato in un eroe o positivo o negativo a seconda dei punti di vista, ma soprattutto si è persa la possibilità in questo paese, in Italia, di parlare di Saviano e dei suoi libri senza per forza dividersi in fazioni. Ed è proprio questo aspetto su quale vorrei insistere, quello cioè di un'Italia che è eternamente divisa tra Guelfi e Ghibellini, tra chi ama Berlusconi e chi lo odia intensamente, eccetera, insomma le categorie sono infinite, perché questo aspetto è proprio italiano, italico oserei dire, ho riscontrato in tante situazioni di questa settimana, di fronte a tante notizie importanti, tante cose che sono successe nell'ultima settimana, quella che racconteremo qui all'ottavo giorno attraverso un paio di ospiti importanti e una serie di servizi già trasmessi nei nostri GR. Naturalmente la divisione Guelfi-Ghibellini c'è su Saviano, ma c'è anche di fronte per esempio alla tragedia di lunedì al largo di Israele sulla nave di pacifisti che è stata colpita a morte dall'esercito israeliano, nave che voleva raggiungere Gaza, e questa divisione è riemersa anche per le celebrazioni del 2 giugno, la festa della Repubblica. Dovrebbe essere una festa di tutti gli italiani che unisce il paese, la nazione, invece, come se non bastassero poi le divisioni che ci sono già fortissime sul 25 aprile, anche sul 2 giugno ci si è divisi. E allora cominciamo con questa copertina dell'ottavo giorno proprio sulla festa di mercoledì e in particolare su chi a quella festa non ci è andato. Sentiamo Elisabetta Fiorito. Una marcetta, non c'è che dire, l'inno di Mameli, eppure sempre il simbolo della Repubblica Italiana, suonato come ovvio il 2 giugno durante la parata militare ai Fori Imperiali. Ci sono tutti, il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, il Premier Silvio Berlusconi e le alte cariche dello Stato. Tutti tranne i leghisti. Napolitano si sfoga, ce l'ha soprattutto con il ministro dell'interno Roberto Maroni. Non è il primo anno che manca, celebra a Varese, ma non ha gli stessi gusti musicali, forse perché suona il sax, ma stranamente Maroni opta per un semplice giro di do. Era una volta una gatta che aveva una macchia nera sul muso da una vecchia soffitta vicino al mare con una finestra a un passo dal cielo blu. Un ministro innovativo anche rispetto alla Lega, che da sempre ha scelto come proprio inno il Vappensiero di Verdi, di indubbio valore artistico rispetto alla semplice marcetta musicata da Michele Novaro con il testo di Goffredo Mameli. Un genovese morto a 22 anni per difendere la Repubblica Romana insieme a Garibaldi. Chissà, magari oggi sarebbe stato leghista, o magari no. Più avanti nel corso del programma, nella terza e quarta parte, affronteremo con calma e con due ospiti due temi cruciali della settimana, forse la notizia più importante, ovvero l'attacco dell'esercito israeliano alla nave di aiuti umanitari verso Gaza e poi la marea nera che sta affliggendo il mare della Louisiana. Ora invece, con una serie di servizi, vi voglio riraccontare la settimana che è stata della politica italiana e dell'economia che, come ho detto prima della pausa, si sono intrecciate in più occasioni. Partiamo allora dalle considerazioni del governatore di Banca Italia. Mario Draghi parla lunedì e a seguirlo per Radio 24 c'era Vincenzo Miglietta. Parla di tagli inevitabili e di manovra necessaria, auspica il rafforzamento in sede europea del patto di stabilità. Il numero uno di Via Nazionale ricorda i difficili momenti del 92, peggiori di quelli attuali, spiega Draghi. Nonostante tutto la sfida fu vinta. Da qui l'ottimismo di Banca Italia sulle capacità del paese di uscire dalla congiuntura negativa e le decisioni di Palazzo Chigi fa capire Draghi vanno nella giusta direzione. La manovra mira a portare la crescita della spesa primaria corrente al di sotto dell'1% annuo nel biennio 2011-2012, determinando una riduzione della sua incidenza sul PIL di oltre 2 punti. La sfida dell'Italia per superare la crisi è coniugare la disciplina di bilancio con il ritorno alla crescita, spiega Draghi, che punta quindi il dito contro gli evasori fiscali. Sono, dice, tra i responsabili della macelleria sociale in Italia. Macelleria sociale è un'espressione rozza ma efficace. E io credo che siano gli evasori, soprattutto i primi responsabili di quella che viene definita macelleria sociale. La corruzione frena la crescita, dice ancora il governatore, che auspica il completamento delle riforme. Quella del lavoro è grande, il disagio tra i giovani, dice Draghi. Poi la previdenza con la necessità di aumentare l'età pensionabile. Il capitolo euro, quindi, è il monito del numero uno di Banca Italia. Dall'euro non si torna indietro. La vigilanza di Banca Italia, conclude il governatore, deve avere più poteri per la rimozione dei vertici delle banche a rischio. Ieri intanto sono arrivate le notizie sul PIL, notizie che sono incoraggianti perché l'Italia ha fatto registrare un aumento del prodotto interno lordo nel primo trimestre del 2010 dello 0,5%, lo attesta Eurostat, e andiamo meglio dei francesi che si fermano a un più 0,1%, dei tedeschi che vanno a più 0,2% e della Gran Bretagna che ha visto un aumento dello 0,3%. Notizie sicuramente incoraggianti che però non ci devono far riposare naturalmente sugli allori, perché la strada è lunga e faticosa. Per esempio, se noi guardiamo questi dati sul PIL con invece i dati sulla disoccupazione, beh, insomma, il passaggio è davvero stridente. Sono usciti martedì e questi dati ce li racconta Anna Marino. L'Italia paga ancora una volta il pedaggio alla crisi. Per l'ottavo mese consecutivo cresce il tasso di disoccupazione, che ad aprile ha segnato un nuovo record all'8,9%, il livello più elevato dall'ultimo trimestre del 2001. E in un anno il numero di occupati in Italia è diminuito di 307.000 unità. Parla di picco negativo, ma anche di segnali di miglioramento il presidente di Confindustria, Emma Marcegaglia. La stima del Centro Studi di Confindustria per la produzione industriale di maggio parla di un più 2,4%. Quindi un'accelerazione, e quindi noi auspichiamo davvero che questi siano i dati peggiori per la disoccupazione e che adesso comincino a riscendere. Secondo l'Istat, l'incremento del tasso si spiega soprattutto con un ritorno sul mercato del lavoro dei cosiddetti scoraggiati, che vanno a ingrossare le file delle persone disoccupate e in cerca di lavoro, salite a 2.220.000, e fanno calare gli inattivi, 76.000 in meno rispetto all'anno scorso. Il record di aprile è comunque al di sotto della media europea della disoccupazione, salita al 10,1%, anche se da noi soffrono di più i giovani, il 30% circa è in cerca di lavoro contro il 20% del vecchio continente, e non succedeva da 6 anni. Siamo di fronte ad un contesto di luci e ombre, e credo che un governo, un'economia nazionale debba soprattutto occuparsi e preoccuparsi delle ombre da sgomberare dal campo. E intanto giovedì arriva un ammonimento importante, pesante, dell'Unione Europea, che chiede all'Italia di innalzare l'età pensionabile delle donne nel pubblico impiego. Le pensioni sono un tema storicamente delicatissimo che nessuno in questa fase, a parte forse Sarkozy, ha preso di petto in Europa, però la strigliata di Bruxelles ha il merito di riattivare il dibattito anche in Italia. Sentiamo Roberta Pellegatta. Individueremo un modo tale da consentire alle donne del pubblico impiego di poter programmare il proprio tempo di vita. E questa la promessa di Maurizio Sacconi, che lunedì incontrerà a Lussemburgo il commissario europeo Viviane Reding. Il ministro del lavoro intende negoziare una soluzione dopo l'ultimatum arrivato ieri da Bruxelles. L'Italia sarà deferita alla Corte di Giustizia europea se non si affretterà ad equiparare l'età pensionabile tra uomini e donne nel pubblico impiego. Non piace l'innalzamento graduale introdotto dal nostro governo, che porterà a 65 anni il requisito anagrafico anche per le donne solo nel 2018. Per Bruxelles la discriminazione va eliminata subito. Marina Piazza, sociologa esperta in pari opportunità. Si potrebbe anche accettare la possibilità di uno spostamento dell'età pensionabile delle donne, però vincolando i risparmi generati da questa operazione a prestazioni previdenziali e sociali di supporto e di riconoscimento del lavoro di cura. Fa un esempio concreto il professor Antonio Golini, docente di demografia all'Università della Sapienza. Si potrebbe pensare pensare a qualche bonus previdenziale, per esempio per ogni bambino allevato un anno di, o un anno e mezzo di bonus, così come d'altra parte si faceva per il servizio militare degli uomini, c'era un bonus previdenziale. Le pensioni dunque sono un obiettivo per il futuro prossimo dell'Italia ma anche del resto d'Europa. Nell'immediato invece nel nostro paese bisogna condurre in porto la manovra correttiva di 24 miliardi che è stata annunciata pochi giorni fa, la settimana scorsa, da Tremonti e Berlusconi. La strada anche qui è molto lunga, intanto il plotone degli scontenti si sta ingrossando, si fa sentire e sono in arrivo molte proteste, come ci spiega Vincenzo Miglietta. Magistrati, farmacisti, mondo della cultura, enti locali. Si allarga la protesta contro la manovra varata dal governo. I primi ad incrociare le braccia saranno giudici e pubblici ministeri. L'ANM ha annunciato infatti 2 giorni di sciopero ancora da definire contro misure ingiustamente punitive che penalizzano non solo il settore ma tutto il comparto pubblico. Il 7 giugno scenderà invece in piazza il mondo dello spettacolo, della comunicazione e della cultura. Preoccupati poi i farmacisti, per i quali sono a rischio il 25% degli esercizi, con seri problemi per oltre 1 milione di cittadini. La manovra ce la impongono la crisi della Grecia e la speculazione sull'euro, si difende il ministro Tremonti, che ad anno zero rivendica: non abbiamo tagliato lo stato sociale. La crisi ha fatto cadere l'export, ha fatto cadere il PIL, ha fatto cadere le entrate fiscali, ma abbiamo lasciato invariata la spesa pubblica. I nostri conti sono in ordine, dice ancora Tremonti, che poi spiega: le emergenze sono 2, l'evasione fiscale e la disoccupazione giovanile. È una manovra che non ha nulla di strutturale, che non risolve i problemi del paese, replica dal PD Bersani. Questa manovra qui, secondo me, dove ci becca davvero, dà delle massate micidiali. Da qui a 8 mesi o 10 mesi, secondo me, impostata così, siamo a capo. Da Palazzo Chigi, infine, Berlusconi, in un comunicato, spiega: il governo ha fatto la cosa giusta nei tempi giusti. Poi, sul rapporto con Tremonti, continueremo a lavorare insieme legati da una leale ed antica amicizia. Non ci sono soltanto le notizie legate all'economia in questa settimana. Il Parlamento, per esempio, italiano, è concentrato anche sul disegno di legge sulle intercettazioni. Anche in questo caso la marcia è tutt'altro che spedita, ci sono molti spigoli, il testo di fatto va avanti e indietro tra l'Aula del Senato e la Commissione Giustizia. Lunedì c'è stato anche un tutt'altro che felpato scontro tra Fini e Schifani, tra i due presidenti di Camera e Senato. Qualcuno ha parlato di invasione di campo dell'uno nei confronti dell'altro, e intanto giovedì sono arrivati gli ultimi ritocchi per il momento della maggioranza. Ci spiega tutto Valentina Furlanetto. Il PDL cambia rotta sulle intercettazioni. Nel timore di una bocciatura da parte del Presidente della Repubblica, la maggioranza ha riscritto, ed è la terza volta, la legge. Sono stati rivisti alcuni dei punti più critici del testo, come il tetto massimo dei 75 giorni per poter intercettare. Corretta anche la parte che prevedeva l'utilizzo di cimici solo in luoghi dove si stia commettendo un reato. I microfoni nascosti invece si potranno mettere ovunque, si possono acquisire elementi utili all'indagine. Altra importante novità è il fatto che il disegno di legge si applicherà anche ai processi in corso, ma saranno salvi gli atti compiuti fino a quel momento. Potrebbe invece essere oggetto di una legge ad hoc l'emendamento del governo che impedisce di intercettare gli 007, modifiche che vanno incontro alle richieste del Colle e che sono state discusse ieri in un vertice di maggioranza al Senato, presente il guardasigilli Alfano. La prossima settimana il testo approderà in Senato. Per chiudere questa parte dell'ottavo giorno voglio raccontarvi 2 vicende che riguardano invece la Chiesa e il Vaticano, e mi fanno venire in mente quello che ho detto all'inizio della puntata, cioè di questa Italia eternamente divisa tra Guelfi e Ghibellini, su Saviano naturalmente sul 2 giugno, ma ancora di più sul Vaticano. E allora, per dimostrare che le cose non sono quasi mai bianche e nere, che la ragione e il torto sono tutte da una parte o dall'altra, ho proprio messo vicino 2 servizi che riguardano 2 scene opposte che coinvolgono però il Vaticano. La prima è sugli sviluppi dello scandalo pedofilia e il secondo servizio invece riguarda l'uccisione purtroppo successa giovedì di un vescovo cattolico in Turchia. Insomma, da una parte la Chiesa si può considerare carnefice, dall'altra però è sicuramente vittima. Da Francoforte Bede Romano e poi Michele Albini. Lo scandalo di pedofilia in Germania raggiunge il vertice della Chiesa cattolica tedesca. La procura della Repubblica di Friburgo ha annunciato che sotto inchiesta è Robert Zollich, il presidente della conferenza episcopale. Il prelato è accusato di aver assunto nel 1987, quando era responsabile delle risorse umane nella diocesi di Friburgo, un prete noto per aver abusato sessualmente di minori. La procura ha precisato che l'indagine si basa esclusivamente sulla denuncia di una delle vittime. Quest'ultima vicenda segue di qualche settimana numerose denunce di atti di pedofilia nelle scuole e nei seminari cattolici di Germania. Sia la conferenza episcopale che l'arcidiocesi di Friburgo hanno respinto le accuse, giudicandole infondate. Accoltellato dal suo autista in crisi di depressione, rimane senza una vera motivazione l'omicidio di Monsignor Luigi Padovese, avvenuto ieri mattina a Iskenderun, dove dal 2004 era vicario apostolico per l'Anatolia. A ucciderlo Murat Altun, al suo servizio da 4 anni e che insieme al prelato era anche venuto 2 volte in Italia. Le autorità turche, catturando l'assassino, hanno escluso che dietro il tragico gesto ci siano motivazioni politiche o religiose. Ma lo stesso Padovese, in questo intervento di qualche tempo fa al microfono di Katia Caramelli, testimoniava quanto fosse complicata la missione dei cattolici in Turchia. Io, vivendo qui, mi rendo conto anche dei pregiudizi che si hanno nei confronti dei cristiani. Per cui la cosa importante, secondo me, è che i pregiudizi si tolgano e da una parte e dall'altra. Io parlerei di una reciprocità, non limitandomi soltanto a mostrare le positività dell'Islam, ma al tempo stesso anche far conoscere veramente che cosa noi cristiani crediamo. Mentre Papa Benedetto XVI è in visita a Cipro, è la prima volta che un pontefice va nell'isola del Mediterraneo, e tra l'altro il Papa, o meglio il Vaticano, in questi giorni si è anche pronunciato sulla terribile vicenda che riguarda Israele e Gaza, l'assalto alla nave di aiuti umanitari di pacifisti lunedì, che è costata la vita a 10 persone. Il Vaticano, come peraltro molti sulla scena internazionale, hanno chiesto la fine dell'embargo per Gaza. Restiamo allora alle vicende tristi del nostro vicino Mar Mediterraneo, dove appunto lunedì si è verificata questa vicenda terribile, tragica, l'assalto finito nel sangue di una nave di aiuti umanitari verso, che voleva attraccare nella striscia di Gaza. Ci racconta tutto questo lungo dettagliato servizio del GR del 19 di lunedì, firmato da Cristina Balotelli. You are approaching an area of hostilities. Which is under a naval blockade. Vi state avvicinando ad una zona di ostilità soggetta a blocco navale. Gaza è chiusa al traffico marittimo. Il governo israeliano, che si fa carico di avere gli aiuti umanitari alla popolazione civile della striscia di Gaza, vi invita ad attraccare al porto di Ashdod. Queste sono le comunicazioni via radio della Marina israeliana alla flottiglia di navi partite dalla Turchia per cercare di rompere il blocco navale. Gli ordini non vengono rispettati, quindi scatta l'assalto israeliano. Su internet circolano le immagini confuse dello scontro. Le fonti ufficiali israeliane parlano di almeno 10 morti e dozzine di feriti, tra i quali alcuni militari israeliani, ma i media dicono che i morti sono 19. Israele scarica la responsabilità sugli organizzatori del convoglio, il ministro della difesa Ehud Barak. In una delle 6 navi di questo convoglio, gli attivisti hanno iniziato uno scontro estremamente violento con i soldati. Siamo dispiaciuti per i morti e per coloro che sono feriti, ma la responsabilità è di coloro che hanno cominciato questo scontro e che hanno organizzato il convoglio, nonostante gli appelli delle autorità israeliane. Versione che però diverge da quella data da fonti turche, che sostengono che sulla nave non ci fossero armi da fuoco, ma solo coltelli. Il premier turco Erdogan ha parlato di terrorismo di Stato. Numerose le reazioni a livello internazionale. Dopo la voce di Cristina Balotelli, adesso sentiremo quella di Ugo Tramballi, inviato del Sole 24 Ore, che conosce molto bene le tristi vicende del Medio Oriente. Buongiorno Ugo. Buongiorno, tristissime vicende. Tristissime. Allora Ugo, io vorrei entrare subito nel merito, perché tu sei persona che parla chiaro, quindi ti posso chiedere anche giudizi tranchant, se vogliamo, perché io, di fronte a quello che è successo lunedì, io che sono una persona che non fatica a trovare cose a sostegno di Israele, però questa volta, di fronte a quello che è successo lunedì, io mi trovo di fronte a 2 opzioni possibili: o è un gesto folle, o per esempio stupido, come lo ha definito lo scrittore Amos Oz, oppure c'è qualcosa che non sappiamo di questa nave, di quello che è successo, che non c'è ancora stato raccontato. Tu, che la sai più lunga di me, come la vedi? No, non credo di saperla più lunga di te, ma comunque non credo ci sia una qualche grande segreto che non conosciamo, un numero di vivi, un numero di morti, un numero di armi, successo quello che abbiamo visto. E credo che questo nasca da un lato da una leggerezza, da una forma di leggerezza dei pacifisti, e dall'altro da una forma profonda di arroganza degli israeliani, che non è la prima volta che gli israeliani lo fanno, l'hanno fatto con i pacifisti, ma gli israeliani si sono sempre comportati così. Mutatis mutandis, la guerra di Gaza, lì c'erano di mezzo dei Qassam, è naturale, ma la guerra di Gaza, se noi guardiamo il numero di vittime, di caduti, di morti da parte palestinese, se adesso se non ricordo male sono stati circa 1400 morti, più della metà erano civili, proprio perché gli israeliani, avendo deciso di colpire i Qassam, a loro non importava più nulla di colpire chiunque altro, pur di colpire anche i Qassam. Mutatis mutandis è stata la stessa cosa su navi Marmara. Ecco Ugo, ma agli israeliani che si difendono dicendo che su questa nave di pacifisti, oltre ai pacifisti in buona fede, c'erano anche personaggi con un profilo, diciamo così, più dubbio, come per esempio il Monsignor Cappucci, già coinvolto in un traffico d'armi con l'OLP tanti anni fa, tu che cosa rispondi? Gli israeliani lo sapevano che andavano a incontrare Salendo, visto che sono estremamente efficienti nei loro servizi di intelligence, quindi si sono trovati estremamente preparati di fronte a una resistenza che probabilmente Mahatma Gandhi l'avrebbe fatta in maniera passiva, lì no, perché sicuramente c'erano anche personaggi che non erano esattamente dei pacifisti. Che cosa ci ha guadagnato Israele? Oggi sicuramente Hamas ha più visibilità di quanto non ce l'avesse una settimana fa. Al di là di quello che non ha guadagnato Israele, sicuramente rischia di perdere una buona parte del sostegno internazionale. Per esempio sta anche rovinando i rapporti con la Turchia, che insomma nel vicino Medio Oriente è un paese diverso, per esempio dall'Iran, dalla Siria, ci sono molti ebrei che vivono in Turchia, la Turchia stessa è dentro la NATO, quindi è alleata degli Stati Uniti quanto Israele. Ora i rapporti sono veramente ridotti ai minimi con la Turchia. Ma io direi che dopo gli Stati Uniti, che sono quel paese che ogni anno dà a fondo perduto 4 miliardi di dollari a Israele, più aiuti militari senza limiti, Israele è l'unico paese al mondo che può andare a fare praticamente con la spesa nell'arsenale militare americano e avere accesso libero. Il paese più importante strategicamente per Israele è certamente la Turchia, più dell'Unione Europea nel suo insieme, più che dell'alleanza con l'Egitto, della pace con l'Egitto e di qualsiasi altro. Ed è proprio con la Turchia che Israele si sta rovinando non solo il futuro ma i suoi rapporti strategici. Non è questo l'avvenimento della settimana scorsa, è solamente, come dire, la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Già da tempo, da quando questo governo israeliano di estrema destra, ultranazionalista e ultrareligioso al potere, che hanno cominciato a distruggere lentamente, a smontare lentamente i rapporti con la Turchia essenziali, perché la Turchia è la porta per Israele verso il mondo islamico. Non stiamo parlando solamente dei 21 paesi della Lega Araba, ma stiamo parlando dei 70 e passa paesi di religione islamica, molti dei quali sono moderati, molti dei quali avevano assolutamente intenzione e avevano del tutto rapporti con Israele. Ecco, questo Israele sta rovinando semplicemente per i suoi assiomi. Ugo, questo governo rischia di cadere o di compromettere la sua stabilità dopo quello che è successo? No, non credo, perché l'unica ragione di politica estera per cui possa cadere un governo israeliano è quando è una crisi dei rapporti con gli Stati Uniti. Forse questo governo si sta avvicinando a questo punto, ma su queste cose c'è stato un grandissimo consenso a livello nazionale. Cioè, il paese ha votato questo governo, il paese è un paese democratico, se questi sono stati questo governo poco spendibile nel mondo, è un governo che è stato democraticamente eletto dalla maggioranza degli israeliani. Gli israeliani, quando ci sono di questo genere, sono tutte dietro i loro soldati, dietro il loro governo. Forse questo è preoccupante per il futuro di Israele, però è corroborante per il governo, certamente. Naturalmente sono curioso di sapere come secondo te si può uscire da questo cul-de-sac, però prima ti voglio chiedere, sempre per restare alla scena internazionale, come vedi il no dell'Italia all'inchiesta ONU su Israele? Immagino che non ti convinca fino in fondo la scelta del governo italiano, però come la motivi? No, ma io credo che il luogo non è tanto la scelta in sé, quanto il luogo nella quale è stata fatta. Il giorno prima, due giorni prima, c'era stata la Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, che è la più alta, l'entità, il corpo più alto decisionale delle Nazioni Unite. E spesso succede quello che non passa alle Nazioni Unite o passa in maniera diversa attraverso una mediazione, poi viene ripresentato alla conferenza dei diritti umani di Ginevra, che è una specie di teatro minore, no, di palcoscenico minore di quello che è invece il Consiglio di Sicurezza. E francamente devo dire che l'Italia ha detto no, ma quasi tutti gli altri paesi europei occidentali, a parte gli Stati Uniti, l'Italia e la Norvegia che hanno detto no, non si sono astenuti, nel senso che è un po' moralmente, per quanto Israele possa aver fatto delle porcherie, è sempre difficile, moralmente difficile anche però votare insieme a paesi riguardo ai diritti umani come l'Arabia Saudita, Cuba, il Kazakistan, non me ne vengono che non possono che certo dare lezioni insomma al resto del mondo. Ugo, ancora un paio di domande, prima però torniamo a quello che è successo di triste, di terribile lunedì nel mare davanti a Gaza in acque internazionali. Sentiamo la voce degli ostaggi italiani che sono tornati a casa in patria giovedì. Il servizio è di Irene Privitera. Sono pronti a tornare a Gaza per liberarla da un assedio che è contro tutte le regole. Lo ha detto Avin Karake, il trentenne italo-palestinese che insieme agli altri 5 nostri connazionali ha fatto ritorno in Italia nella giornata di ieri, dopo il blitz dei soldati israeliani sulla flottiglia Freedom. Il primo ad atterrare a Fiumicino è stato Manuel Zani. I nostri diritti non sono stati minimamente rispettati dal momento del sequestro sino al momento del rilascio. Nessuna telefonata ci è stata concessa. La nostra ambasciata è stata anche, a quanto pare, ostacolata nell'ottenere informazioni riguardo a noi. Manolo Lupichini ha parlato di testimonianze secondo cui le vittime sarebbero 19, non 9, come dicono le cifre ufficiali. I corpi sarebbero stati buttati in mare. Violenze fisiche e psicologiche nel carcere di Beersheba, quello di Angela Lano, allo scalo di Malpensa, è stato un lungo racconto. C'è stato un attacco infernale, credo che sia la cosa peggiore che tutti noi abbiamo mai visto in vita nostra, ad eccezione dei palestinesi che queste cose, lo dico, le vedono da 62 anni a questa parte. Picchiati, umiliati, privati dei propri beni e della libertà, un sacrificio per la gente di Gaza e che rifaremo ancora, ha ribadito Avin Karake. Ho ancora una domanda, l'ultima per Ugo Tramballi. Ugo, di fronte a quello che abbiamo sentito, di fronte anche al fatto che altre navi hanno annunciato insomma che vogliono sbarcare, vogliono arrivare a Gaza, e di fronte all'impasse nel quale si trova inevitabilmente Israele sulla scena internazionale, come si esce da tutto questo? Cominciando progressivamente a togliere l'embargo, cominciando a permettere ai palestinesi di ricostruire la loro vita, nel senso che da un anno e mezzo i palestinesi vivono nelle tende o dentro le macerie, tra le macerie delle loro case bombardate dagli israeliani un anno e mezzo fa. Quello che bisogna mandare a Gaza non sono armi e munizioni, è facile vedere che cosa passa per Gaza. Israele impedisce però che passi anche cemento, travi, tutto quello che serve per costruire le case. Detto questo, però, avendo sentito i pacifisti di fronte ai quali, come dire, tolgo il cappello per il loro coraggio, per la loro determinazione, certamente se per esempio almeno uno striscione su una di quelle tante navi fosse stato no a quegli stupidi Qassam, sicuramente sarebbero stati un pochettino più credibili, perché non è vero, l'ho appena detto, è immorale l'assedio di Gaza un anno e mezzo dopo, perché non si assedia solamente Hamas, ma si ritiene colpevole di questo più di un milione di palestinesi. Però ecco, se ci fosse da parte dei pacifisti anche, come dire, venga proposto il pacchetto intero, che è quello, ma è anche appunto la stupida militarizzazione di Hamas, la folle politica di Hamas, di estremismo, certamente, come dire, il messaggio pacifista sarebbe molto più completo, quantomeno credibile comunque, ma molto più completo. Sono passati ormai 46 giorni, un mese e mezzo dal 20 aprile, quando al largo della Louisiana esplose la piattaforma petrolifera gestita dalla British Petroleum a 1500 metri di profondità. Da quel giorno la fuoriuscita di greggio non si è mai fermata, nonostante i diversi tentativi. Adesso è il momento del tappo, però noi ritorniamo esattamente a domenica scorsa, grazie a questo servizio di Ludovica Scaletti che ci aggiorna dell'ultimo tentativo prima di quello in corso, fallito a sua volta. L'operazione Top Kill è fallita e il petrolio continua a fuoriuscire a 1600 metri di profondità. La BP ora tenta con l'opzione di riserva. Bob Dudley, uno dei responsabili della compagnia, spiega come funzionerà la nuova manovra, che partirà nei prossimi giorni, ma di cui non si conosce la durata. Verrà calata una sorta di cappuccio che dovrebbe coprire la falla. Il petrolio verrebbe poi raccolto su una nave in superficie. Obama ha fatto sapere che l'operazione è piena di rischi e che per questo non è stata tentata prima. Nel frattempo la marea di greggio si espande e quella del Golfo del Messico è stata definita la peggiore catastrofe ecologica per gli Stati Uniti. Continuano intanto le proteste in tutta l'America e il Dipartimento della Giustizia ha intrapreso un'azione penale contro BP per i comportamenti tenuti prima e dopo il disastro. Secondo documenti riservati, la società era a conoscenza dei problemi di sicurezza della piattaforma, ma li avrebbe ignorati. Ad ascoltare il servizio in compagnia di voi ascoltatori c'è anche in collegamento Marco Magrini, esperto di questioni ambientali e climatiche del Sole 24 Ore, amico dell'Ottavo Giorno. Buongiorno Marco. Buongiorno. Allora Marco, noi gioco forza ti abbiamo chiamato in causa per quello che, lo abbiamo anche appena risentito, è sicuramente il più grave disastro ecologico americano, ma forse della storia. Le proporzioni non sono ancora ben chiare. Cominciamo però da un aneddoto personale che ti riguarda, perché tu mi hai raccontato prima di andare in onda che una decina di giorni fa ti sei imbattuto in un funzionario ministeriale, non facciamo nomi neanche del ministero, che ti ha detto la BP ha risolto il problema, ha chiuso il tap, ha chiuso il buco, insomma la falla. Tu ti sei messo a ridere, insomma risata amara, però mi sa che avevi ragione. Non è piacevole avere ragione in queste situazioni, però niente, io nelle ultime settimane ho parlato con diversi esperti negli Stati Uniti, i quali in ultima analisi hanno messo il dito sul vero problema di questo, di questa perdita di petrolio, cioè la profondità. Qui siamo a 1600 metri di profondità. È vero che c'era stato un altro caso analogo nel Golfo del Messico nel 1979, proprio davanti alle coste del Messico. C'erano voluti 9 mesi per tappare quella falla, però era a 50 metri di profondità, qui siamo a 1600 metri dove c'è una spaventosa pressione del mare, la temperatura dell'acqua è gelida e in quel punto esce un petrolio insieme a mille altre sostanze che è a una temperatura molto elevata, per cui tutte queste circostanze insieme purtroppo non lasciano sperare in una soluzione rapida di questo terribile evento. Marco, vogliamo ricordare quanto petrolio finora è uscito e quanto così a questo ritmo potrebbe uscire anche nei prossimi mesi, perché si parla anche di mesi a questo punto. Sono sicuramente mesi, io almeno questo è quello che capisco parlando con gli esperti. Il petrolio che è uscito, ho fatto il conto approssimativo un paio di giorni fa e posso dire 500.000 di barili di petrolio. Teniamo conto che appunto l'altro incidente nel 1979 ne fece uscire 3.500.000, quindi qui siamo cifre spaventose. Esattamente, sono cifre spaventose, ma il problema è che in questo caso non abbiamo informazioni esatte. Cioè, mi piace ricordare che quando la cosa è cominciata, la BP aveva detto che uscivano 1.000 barili il giorno, adesso si sta parlando di 20.000. Beh, mi sembra evidente che la BP abbia cercato all'inizio, non dico di insabbiare, ma di ridimensionare fortemente l'accaduto, poi è stata travolta a sua volta dagli eventi. Nel frattempo abbiamo assistito ad una serie, per certi versi anche scoraggiante, di tentativi per chiudere la falla. Insomma, alcuni fanno anche pensare, se vogliamo, ad un film ad altissimi effetti speciali di Hollywood, però purtroppo è la realtà. Abbiamo visto la cupola d'acciaio, un siringone, poi il tentativo di cui ha parlato anche il servizio che abbiamo riascoltato del Top Kill fallito, ora è il momento del tappo. Insomma, tutto questo mi fa pensare che ci sia una certa confusione sotto il cielo e a questo punto anche sotto l'oceano, Marco. Ma la confusione, devo dire, io sono rimasto abbastanza allibito quando l'altro giorno l'amministratore delegato di BP, Tony Hayward, ha detto serenamente al Financial Times che non avevano previsto nessuna misura preventiva o nessuna misura, se vuoi, di emergenza per far fronte a cose di questo genere. Io ritengo che sia letteralmente allucinante. Tieni conto che due giorni fa Riccardo Sabatini ha scritto sul Sole 24 Ore un interessante articolo che diceva che la BP non aveva nemmeno non ha nemmeno una polizza assicurativa contro questo genere di eventi. Quindi ritenevano che di essere invincibili e che non sarebbe mai successo niente del genere. Ma insisto, qui il problema è che siamo a 1600 metri di profondità. Ad un certo punto, e questa forse è la spia più impietosa della disperazione anche e della confusione nella quale si trova la BP, è entrato in scena persino James Cameron, il grande regista di Titanic, Avatar, ma anche di Abyss tanti anni fa, quindi esperto di mare in tutti i sensi. Sentiamo sull'intemerata di James Cameron proprio questo frammento di un servizio dal GR delle 13 di giovedì firmato da Roberto Buonaldi. La sua disponibilità e competenza sono affondate come il Titanic di cui ha raccontato la tragedia. Il regista James Cameron è stato messo da parte dalla compagnia petrolifera BP. Voleva dare una mano ai tecnici per esplorare con le apparecchiature più moderne i fondali del Golfo del Messico, da cui continua a fuoriuscire petrolio. La società però l'ha liquidato e tenta da sola di incappucciare la falla del greggio. Un'occasione persa per la BP. Cameron è considerato un grande esperto di esplorazioni sottomarine. Il regista non ha preso bene il rifiuto della compagnia petrolifera. Avrebbe definito gli uomini della BP come degli imbecilli che non sanno quello che fanno. Marco Magrini, sempre in collegamento con noi, insisto, se entra in ballo James Cameron siamo alla frutta. Siamo alla frutta, sì. La BP in realtà ha chiesto aiuto a chiunque, incluse tutte le compagnie petrolifere concorrenti. Marco, ultima riflessione la vorrei dedicare ad Obama. Io ho fatto questo ragionamento. Naturalmente Obama deve far fronte ai danni ecologici che sono spaventosi, poi ci sono anche, da non dimenticare, i danni economici, perché c'è il problema della pesca naturalmente nella Louisiana, e tra l'altro dalla Louisiana arriva gran parte del pesce che poi viene distribuito nelle tavole di tutti gli Stati Uniti. Poi c'è il problema della stagione turistica, naturalmente, che sta per partire e sarà fortemente colpita dal danno ambientale, ma nel frattempo Obama deve anche fronteggiare naturalmente un danno d'immagine profondo. Pare che il suo indice di gradimento sia sotto il 50%. Però sembra forse un paradosso, ma non lo è. In questo momento Obama avrebbe davvero la straordinaria occasione di dare una sterzata ecologista, ambientalista alla sua amministrazione, lui che si è presentato come presidente verde, perché potrebbe dare veramente una stangata, approfittando del terribile disastro ambientale in questione, alle compagnie petrolifere. Battaglia ardua, ma forse non impossibile per Obama. Ce la farà secondo te? Al di là delle multe che verranno date alla BP, naturalmente. Sì, io devo dire che lo scivolone di Obama, che però è anche un colpo di sfortuna, se vogliamo, del presidente americano, è che poche settimane prima di questo disastro aveva annunciato una nuova iniziativa di legge per aumentare il drilling, la perforazione offshore, quindi nel mare, sostanzialmente dicendo che l'America deve rivedere senz'altro il suo sistema energetico, andare verso le energie rinnovabili, che però non era pensabile di poter garantire la propria sicurezza energetica senza trovare altro petrolio nel mare davanti agli Stati Uniti. Diciamo che era uno scambio, insomma, per avere più risorse energetiche dall'altro lato apriva alle trivellazioni di petrolio Obama. Esattamente, quindi se vuoi ha fatto una cosa molto alla Bush, tanto per intendersi, ricordando che il suo predecessore era molto amico delle compagnie petrolifere, e purtroppo gli è andata male perché ha scelto proprio il momento sbagliato di farlo. Ovviamente io non darei grandi colpe all'amministrazione americana in carica per quello che è successo. Però, come dire, c'è una fatalità dietro a tutto questo. Gli Stati Uniti d'America sono il paese che a livello pro capite consuma di gran lunga più petrolio di qualsiasi altro paese al mondo. Le proprie risorse petrolifere hanno cominciato a scendere dal 1971, quando, ricordo, a quei tempi era il primo paese produttore di petrolio, e oggi non lo è assolutamente più, e quindi qualche toppa anche il presidente ecologista ce la doveva mettere. Il problema è che, come dicevo prima, ha scelto il momento sbagliato per fare quel genere di discorso. E speriamo che questa toppa la metta prima o poi Obama. Siamo di corsa, quindi ringrazio rapidamente Marco Magrini per il contributo, ringrazio Valerio Rocchetti in regia, vi do la mail ottavogiorno@radio24.it. Noi ci ritroviamo sabato prossimo, come sempre, poco dopo le 9.